Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America garantisce una serie di libertà ritenute fondamentali, la libertà di culto, il diritto a riunirsi, insomma un sacco di cose, ma soprattutto la sacrosanta libertà di parola e di stampa. Sono molti i cittadini privati, ma anche gli enti o addirittura degli stati dell'Unione Americana che nel corso degli anni si sono appellati a questo emendamento. L'abbiamo sentito mille volte anche nei film. Mi appello al primo emendamento. Persone e enti che hanno vinto cause anche controverse grazie ai fondamenti della Costituzione, e la Costituzione garantisce giustizia quando viene lesa la libertà di un qualsiasi cittadino americano. E tra coloro che si sono appellati al primo emendamento, non una ma decine di volte, c'è il nostro uomo, l'uomo che ha ingaggiato delle vere e proprie battaglie legali per fare valere quella che lui considera libertà di stampa, ma che le parti avverse di volta in volta hanno ritenuto essere invece attività illegali, oltraggiose, lesive della morale, perché da un lato l'America tutela la tua libertà, dall'altra però se sgarri sulla morale, se dai scandalo, sei fregato. Quest'uomo è un eccentrico, un anticonformista, è il nostro protagonista di oggi. Raccontiamo la sua storia, che non tutti conoscono, che ha dei risvolti molto interessanti perché riguardano il senso della morale che cambia negli anni, ma anche il concetto stesso di libertà. Raccontiamo la vicenda di Larry Flint, il più controverso editore statunitense, ideatore e proprietario della rivista pornografica Hustler. Se volete rendervi conto, andate sul sito di Hustler quando non ci sono le vostre mogli o i vostri figli nelle vicinanze. E Hustler peraltro parte come uno dei più importanti periodici del settore, assieme a Playboy e a Penthouse. Di sicuro è molto più spinta però di questi suoi concorrenti. Larry Flint, un personaggio molto amato da una certa categoria di lettori e credo invidiato dalla maggior parte degli uomini, inviso a alcune donne, soprattutto alle femministe, combattuto dai ben pensanti, è lui il nostro protagonista. Vorrei iniziare facendovi sentire questo. Proviamo a riflettere. L'omicidio è un reato. Ma se fate una fotografia a qualcuno nell'atto di commettere un omicidio, vi mettono sulla copertina di Newsweek e magari vi danno anche un premio Pulitzer. Invece, il sesso non è reato. Tutti continuano a farlo, tutti vogliono continuare a farlo. Eppure, provate a fare una foto di due persone colte nell'atto sessuale o una foto del corpo nudo di una donna. Vi mandano in prigione. E allora io ho un messaggio per tutti voi, buoni cristiani di saldi principi morali, che protestate perché i seni e le vagine sono osceni. Ehi, non prendetevela con me, prendetevela con il fabbricante. Io credo che la vera oscenità stia nell'inculcare nei nostri giovani la convinzione che il sesso è male, è brutto, è immorale, che invece è morale ed eroico andare a spargere le proprie viscere e a versare il sangue nei più spaventosi massacri in nome dell'umanità. Con tutti i tabù che accompagnano il sesso non c'è da stupirsi se abbiamo i problemi che abbiamo, se siamo aggressivi e violenti e compiamo genocidi. Ma allora fatevi questa domanda: che cosa è più osceno, il sesso o la guerra? Eh già, cos'è più osceno, il sesso o la guerra? E il pubblico ha risposto unanime: la guerra. Questa è una scena di un film, un bellissimo film peraltro, dedicato proprio alla vita di Larry Flint, un film che si chiama Oltre lo scandalo, prodotto da Oliver Stone con la regia del grandissimo Miloš Forman, per capirci è il regista di Qualcuno volò sul nido del cuculo, di Amadeus. Però la domanda, che sembra banale, non trova una risposta così altrettanto scontata. È più osceno il sesso o la guerra? Beh, ci sono battaglie legali, milioni di dollari spesi in avvocati, cauzioni, ammende, la prigione pur di dimostrare questo assioma. Trova soprattutto un'opinione pubblica spaccata, perché detta in astratto è più oscena la guerra. Poi, quando si passa ai fatti o a vedere le cose, arrivano i ben pensati inorriditi dalla figura disinibita e sopra le righe di Larry Flint, e che sono la maggioranza, una minoranza affascinata dal suo personaggio e dalla sfavillante carriera nel mondo dell'editoria. E poi, naturalmente, arrivano le femministe che rivendicano il fatto che la donna non vada mercificata, bla bla bla. L'escalation di Larry Flint, un percorso che lo porta a essere uno degli editori più imponenti e influenti non solo del mondo della pornografia ma anche della carta stampata in generale, e non è un percorso senza passi falsi e di errori, di colpi di testa. Lui ne fa parecchi, alcuni gli costeranno veramente molto cari, e lui peraltro è un personaggio sopra le righe, non dice mai quello che gli altri si aspettano, è irrispettoso, beffardo, non riconosce l'autorità, però ha un fondo di genialità che anche i suoi nemici più acerrimi devono riconoscergli. Intanto è geniale, è incredibilmente determinato, forse anche a causa delle sue umilissime origini, per cui il nasce il primo novembre del 42 a Sullivansville, che è una, un paesino nel Kentucky, una delle zone più povere di tutti gli Stati Uniti. Infatti i Flint sono una famiglia indigente praticamente. Larry e suo fratello minore devono veramente lottare per non morire di fame. Ascoltate cosa ha raccontato lui di recente. Quando avevo circa 10 anni, decisi che sarei diventato ricchissimo, perché ero così povero a quel tempo e pensavo che il successo dipendesse dai soldi. Ora ho capito che il successo non dipende dai soldi che hai, ma dagli ostacoli che sei riuscito a superare per raggiungerlo. Bella, questa mi piace, è vero, molto vero. Comunque, l'infanzia, poi l'adolescenza di Larry Flynn sono un incubo. Pensate, a 15 anni, pur di andarsene dalla miseria in cui vive con la famiglia, falsifica il passaporto e entra nell'esercito. Però gli va male perché non ci sono conflitti in quel momento. Insomma, viene congedato, lui aspetta, poi ci riprova, perché un conflitto in America prima o poi ci scappa, no? E sempre con documenti falsi riesce a entrare in marina, fa carriera, diventa un operatore radar specializzato, sempre da minorenne e sempre senza che nessuno se ne accorga, e vedremo che gli vengono anche affidati incarichi di vitale importanza. Il falco e il gabbiano. Larry Flint, il nostro protagonista, che nel frattempo è entrato in marina, seppur con documenti falsi, però è talmente bravo che viene assegnato alla US Enterprise, la prima portaerei a propulsione nucleare della storia, soprannominata Big E, essendo la nave da guerra più lunga del mondo. Larry Flint non ha ancora 20 anni, diventa uno dei 4600 membri dell'equipaggio altamente specializzato. La portaerei è un portento navale. Il 20 febbraio del 62 riceve un incarico destinato a entrare nella storia. Le viene assegnato il compito di intercettare l'ammaraggio e eventualmente a recuperare nell'Oceano Atlantico la navicella spaziale Friendship 7 del programma Mercury, il primo programma di lanci spaziali degli Stati Uniti, con a bordo il tenente colonnello John Glenn, il primo uomo americano a essere stato in orbita attorno alla Terra. Larry Flint è l'operatore radar incaricato di rilevare la navicella, che cade però 60 km più lontano dal punto calcolato a causa di diversi problemi tecnici, tra cui un malfunzionamento dello scudo termico. Ma grazie alla giusta rilevazione del punto di ammaraggio, il recupero avviene senza problemi a opera dell'incrociatore US NOAA, il mezzo navale militare più vicino. Così il giovanissimo Larry Flint, grazie a queste e anche ad altre operazioni ben riuscite, sembra avviata una straordinaria carriera all'interno della Marina militare statunitense. Per molto meno si può diventare ammiraglio, ma così non è, perché dopo altri 2 anni, alla fine del 64, Larry lascia la Marina perché ha in mente ben altro. Quando lasciai la Marina non avevo alcun titolo di studio. Avevo un po' di risparmi, ma mi servivano altri soldi. Così lavorai in alcune fattorie e poi finalmente riuscì a fare quello che avevo in mente: rilevare il bar di mia madre a Dayton. Era solo una birreria, ma riuscii a farlo funzionare e in poco tempo ne rilevai altri in diverse città. Insomma, il sogno americano inizia a prendere forma perché con i suoi risparmi, $1,800, lui rileva il Kiwi, che è un bar gestito dalla madre a Dayton in Ohio, e nel 65. E lui ha rilevato poco più di una birreria, però nel giro di pochi mesi lo trasforma, arriva a farlo fruttare $1,000 a settimana dopo averlo pagato $1,800 in tutto. Con questi soldi acquista altri due bar, locali malfamati, frequentati da delinquenti, gente poco raccomandabile, prostitute. Non che le prostitute siano poco raccomandabili, però si fa così per dire. E lui non ha vita facile, deve sedare risse, cacciare gli ubriaconi, ma è proprio guardando quella gente che gli viene in mente di fare un salto di qualità, creare qualcosa di diverso. È destinato a una clientela più scelta. In un'intervista di alcuni anni fa, Larry Flint racconta a chi si era ispirato quello che gli aveva fatto pensare di poter migliorare la sua vita. I modelli a cui mi ispiravo erano differenti da quelli degli altri. Erano i militari o i politici. Non me ne fregava niente degli attori. Sono stato influenzato in particolar modo dal presidente Kennedy. Quando parlava, mi veniva sempre la pelle d'oca. Ho sempre pensato che era così profondo. Strano, no? Chissà se John Fitzgerald Kennedy sarebbe stato contento di sapere che Larry Flint aveva tratto ispirazione proprio da lui per quello che sarà il suo capolavoro, l'inizio di un impero però molto discutibile. Larry apre un nuovo bar rivoluzionario, unico nel suo stato, e lo chiama Hustler Club. La parola hustler significa spaccone, probabilmente un omaggio al film con Paul Newman, quello dove l'attore interpretava il giocatore di biliardo, però non è un locale dove si gioca. E no, Larry unisce le due cose che lui ama di più e che mezzo mondo ama di più, e non capisco l'altra metà. Il bere e le donne. Crea il primo locale solo per uomini dove offre spettacoli con le ballerine nude. Non stiamo parlando di spettacoli di striptease all'acqua di rose, di roba elegante. Larry Flint non è uno dalle mezze misure. Qui si parla di spettacoli molto, molto spinti. Naturalmente l'Hustler Club ha un successo strepitoso, tanto che a partire dal 68, con l'aiuto del fratello Jimmy, Larry Flint apre Hustler Club a Cleveland, Columbus, Cincinnati, Toledo, tutti i locali che diventeranno una miniera di guadagni, rendono tra i 250.000 e i $500.000 l'anno ciascuno. I $1,800 di partenza forse possono servire solo per le mance. Nel 1972 Flynn fonda Hustler Newsletter, una pubblicazione di 4 pagine in bianco e nero con il programma e i servizi dei suoi club. È un semplice programma nelle sue intenzioni, ma le immagini esplicite e le descrizioni particolareggiate di quello che avviene nei club fa sì che questi programmi vadano a ruba. Così Larry comincia a portarli a 16 pagine e poi a 32. In meno di un anno Hustler Newsletter ha un tale successo che Larry Flynn decide di trasformarlo in una vera e propria rivista. Lui nel frattempo si è fidanzato con quella che diventerà la sua quarta moglie, Althea Leisure, una ex spogliarellista che diventa la sua collaboratrice più fidata. Anche grazie a Althea, Hustler diventa nel giro di pochissimo tempo un affare molto redditizio, soprattutto dal novembre del 74, quando iniziano a venire pubblicate le prime pink shots, cioè foto esplicite di vagine. Rispetto alle sue dirette concorrenti Playboy e Penthouse, Hustler si differenzia perché non ha mezzi termini. È proprio come il suo fondatore, non ci sono foto ammiccanti, vedo non vedo, nudo di classe, è tutto estremamente esplicito. Non si tratta di erotismo, ma di pornografia spinta. Ascoltate cosa dice a proposito della pornografia proprio lui, Larry Flint. La pornografia ha cambiato in meglio la vita delle persone. Una cosa che la pornografia fa e alla quale non si pensa mai è che desensibilizza le persone, in particolare gli uomini. Oggi uno dei problemi maggiori nelle relazioni è l'eiaculazione precoce. L'esposizione della pornografia rende gli impulsi sessuali più rilassati. Non devi più essere così veloce. E così comincia a diventare quasi un terapeuta del sesso, poi se lo dice da solo un po', ma è un po' è vero, però sicuramente è un imprenditore molto furbo e agguerrito che sta costruendo il suo impero, un impero che ha i suoi problemi, perché Hustler è così esplicita, così spinta, che perfino i distributori la ritengono esagerata, nonostante frutti i loro guadagni esorbitanti, e minacciano di rimuovere dal mercato le copie se Flynn continua a mantenere le sue posizioni estreme. Lui non ci pensa nemmeno a modificarsi, ogni singolo numero è una lotta che lentamente trasforma Larry Flint in qualcosa di diverso, qualcosa di più profondo, in un paladino per la difesa della libera espressione e della libera stampa. E tra poco vediamo cosa succede a Hustler e al suo fondatore. Il falco e il gabbiano. La storia che stiamo raccontando oggi riguarda un uomo che sicuramente ha collezionato nella sua vita più detrattori che sostenitori. Uno che ha dovuto affrontare un numero esorbitante di cause, di denunce, però che ha fondato un impero immenso diventando multimilionario. Ha scatenato l'odio di alcuni e l'ha pagata cara. Il nostro protagonista è lo statunitense Larry Flint, eccentrico, anticonformista, editore della rivista pornografica Hustler, uno dei più importanti periodici del settore assieme a Playboy e Penthouse, dai quali però si differenzia perché molto più esplicito. Molto. Insieme alla quarta moglie Altea e al fratello Jimmy, Flynn crea un impero immenso fondato sul porno e si scandalizzano i puritani, si scandalizzano le comunità religiose, arrivano decine e decine di querele, di condanne. Intanto Hustler, di querela in querela, ha un successo strepitoso in America, mostra foto più dirette di qualsiasi altra rivista del settore e insiste su rappresentazioni della donna che le femministe ritengono offensive, come la famosa foto di una donna nuda infilata a testa in giù in un tritacarne che diventa la copertina simbolo di Hustler, e le femministe ovviamente reagiscono, e a loro, quelle che tanto lo odiano, Flint rispose così. Quando mi criticano sulla pornografia, mi accusano di sfruttare le donne, mentre io le donne le esalto. Sarebbe come dire che mostrare delle foto di sport vuol dire sfruttare lo sport. Io vendo questo, pornografia, e nessuna donna che ho messo sul mio giornale è mai stata obbligata a farlo o si è mai sentita sfruttata. Sono le femministe che ci devono mettere il loro marchio. Il colpo definitivo, quello che consacra Hustler nell'Olimpo della pornografia, avviene nel 1975, quando un paparazzo contatta Larry Flint offrendogli alcuni scatti della ex First Lady Jacqueline Kennedy Onassis, una delle donne più ambite, più famose, più desiderate e anche però più rispettate del mondo fino a quel momento. Lei sta prendendo il sole, completamente nuda. Sono scatti del 71, quando lei finalmente tolto il velo nero della vedovanza, lei era la moglie di John Kennedy, finalmente si sposa con Onassis e comincia un po' a godersela ed è fotografata nuda. Larry Flint acquista le fotografie per $18,000, le pubblica sul numero di agosto. In due giorni vengono vendute oltre 1 milione di copie, un successo che trasforma l'editore in un magnate a capo di un impero. Nasce la Larry Flint Publication, che negli anni estenderà i propri interessi anche ad altri ambiti, come per esempio la produzione di film, ovviamente pornografici. Larry Flint entra inevitabilmente nell'occhio del ciclone. Dopo il successo del numero di agosto, diventa oggetto lui di numerose battaglie legali riguardanti la legislazione sulla pornografia e, da parte sua, la libertà di espressione. La sua prima causa è del 76, si svolge a Cincinnati, dove il capo di una commissione locale antipornografia lo cita per oscenità e criminalità organizzata. Viene condannato in primo grado a 25 anni, ma la condanna viene annullata subito per un cavillo. ma non gli va sempre bene. Ad esempio, quello stesso anno Kathy Keaton, che era fidanzata con l'editore della rivale Penthouse, Bob Guccione, sentendosi oltraggiata da una vignetta denigratoria pubblicata su Hustler, querela Flint per diffamazione. E questa volta lei vince. Larry Flint deve sborsare parecchio per risarcirla. Tra l'altro, proprio durante quel dibattimento, Flint se ne esce con un improperio piuttosto pesante nei confronti dei giudici, definendoli 8 stronzi. Il presidente della corte lo fa arrestare, però lui è un irriducibile, nessuno lo ferma, non ha alcun rispetto per i tribunali che lo giudicano. Vuol dichiarare il suo nome completo per gli atti, prego, signor Flint. Sì, signore. Cristoforo Colombo, Cornwallis E.P.Q. Harvey, H.N. Page Pew. Molto interessante, ma lei non è anche noto come Larry Flint? Al secolo Gesù H. Flint, professore dottore. Ah, per tutti i santi, Larry. Lei è il proprietario e il redattore capo della rivista Hustler? Io sono il proprietario della più insulsa, oscena, disgustosa e grande pornorivista mai apparsa sulla faccia della terra. Grazie. Lo sentite, è anticonformista, è spavaldo, è spaccone, come il nome della sua rivista. Larry Flint non si cura di quelli a cui pesta i piedi, quelli che si sentiranno offesi dalle sue attività, va avanti per la sua strada. Purtroppo sulla sua strada un brutto giorno incontra la persona sbagliata. È il 6 marzo del 78, durante uno dei tanti processi che lo vede incriminato per oscenità nella contea di Gwinnett in Georgia, Flint e il suo avvocato Gene Reeves vengono raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco e sono nei pressi del tribunale. E l'avvocato se la cava con poco, purtroppo Larry subisce delle ferite gravissime che lo costringono da quel momento e per sempre su una sedia a rotelle. È a solo 36 anni. È una tragedia immensa che la maggior parte delle persone prenderebbe per quella che è, cioè una tragedia. Ma lui è Larry Flint, è un uomo dal carattere tenace e inscalfibile. Ascoltate cosa ha dichiarato proprio di recente. Alcune volte mi chiedono come sia stare su una sedia a rotelle da così tanti anni. E io rispondo, non lo so, non ci ho pensato fino a quando me lo hai chiesto. Non mi occupo di cose per le quali non posso fare niente. Questo vi può far capire che tipo di persona sono. Non perdo tempo ad occuparmi di cose che non posso risolvere. Larry Flint si ritrova a 36 anni su una sedia a rotelle, è paralizzato dalla vita in giù, non ha possibilità di guarigione e inoltre soffre tremendamente perché ha dolori lancinanti tutto il corpo, tanto è vero che deve assumere con regolarità una dose massiccia di antidolorifici e questi farmaci cominciano a provocargli una suefazione cronica che lo porta anche alla tossicodipendenza nella quale trascina anche la moglie Althea. A seguito di questo attentato, tra l'altro, lui torna sui suoi passi, si dichiara ateo dopo che solamente l'anno prima si era convertito alla chiesa dei cristiani evangelici e anche se è ateo, anche se non è credente, lui dimostra il senso del perdono cristiano quando molti anni dopo l'attentato si scopre il colpevole, che era un certo Joseph Paul Franklin, che era un serial killer, membro della White Supremacy, cioè un movimento ideologico razzista, e quest'uomo era accusato di una ventina di omicidi. Franklin confessa di aver sparato a Flint, offeso per una foto pubblicata nella sua rivista in cui si mostrava la scena di un rapporto sessuale tra una donna bianca e un uomo di colore, cosa da questo matto ritenuta intollerabile. Quando Franklin viene condannato alla pena capitale per i tanti omicidi, Larry Flint si dichiara contrario a che venga giustiziato. You were shot by Joseph Paul Franklin. Lei è stato colpito da Joseph Paul Franklin nel 1978 ed è paralizzato da allora. Franklin dovrebbe essere giustiziato nel novembre del 2013. La maggior parte delle persone vorrebbe vendicarsi, ma lei non sembra desiderarlo. Ci vuol dire perché? Ci ho pensato per molto tempo, ma è una questione di giustizia, non di vendetta, che è quello che si ottiene con la condanna a morte. Se io pensassi che la pena di morte sia un deterrente, la sosterrei. Ma nella storia non esiste evidenza a supporto della pena di morte come deterrente. Cosa pensa oggi dell'uomo che le ha sparato? Mi piacerebbe passare un'oretta con lui da solo, per fargli provare un po' della sofferenza che lui ha fatto provare a me. ma non vorrei ucciderlo. E penso che il governo non dovrebbe uccidere nessuno. Malgrado il tentativo di Flint per salvargli la vita, Joseph Paul Franklin viene giustiziato il 20 novembre del 2013 per avere commesso una ventina di omicidi di ebrei afroamericani. Nonostante si ritrovi paralizzato su una sedia a rotelle in preda a terribili dolori, tossicodipendente, Larry Flint non accenna minimamente a modificare la sua vita o a cambiare qualcosa della sua rivista. Anzi, Hustler diventa sempre più trasgressiva, non si ferma davanti a niente. Sembra che Flint si diverta a collezionare denunce e condanne. Uno dei casi giudiziari più lunghi, intricati ma anche divertenti è quello che lo vede citato nel 1983. È citato da un reverendo, Jerry Falwell, un telepredicatore famosissimo in America. Larry Flint lo dileggia nella sua rivista in maniera molto pesante. Ascoltiamo il racconto dallo stesso Larry Flint, intervistato in un faccia a faccia proprio con il reverendo al Larry King Show molti anni dopo il processo, nel 96. Decise di fare la famosa parodia di Jerry Falwell nella pubblicità del Campari. Le venne così spontaneo, improvviso? Era la parodia di un annuncio del Campari in cui veniva chiesto ad alcune celebrità di raccontare la loro prima volta. La prima volta che avevano fatto sesso, che veniva paragonata alla prima volta che avevano bevuto un Campari. Noi decidemmo di fare questa cosa anche con Jerry Falwell. Fargli raccontare la sua prima volta. Sì, ma facendogli dire che era stato con sua madre. Sì, ma era chiaramente una satira. Insomma, però immaginate il reverendo Jerry Falwell che scopre su una rivista come Hustler che lui appare in un finto annuncio della Campari e racconta che la prima volta è stato con sua madre. Insomma, non sono proprio cose che fanno piacere. E ascoltiamo il reverendo sempre alla trasmissione di Larry King. When you saw it the first time. Quando lo vide la prima volta, la sua reazione? Reaction. Okay, I was in Washington and a reporter. Io ero a Washington e un giornalista, mentre lasciavo una conferenza, mi chiese se avessi visto l'annuncio che mi riguardava sulla rivista Hustler. E io risposi che non era il mio genere di letture. Ma quando me lo fecero vedere, scoprì che c'era di mezzo anche mia madre, che a quel tempo era ancora viva. Aveva 82 anni ed era una deliziosa e dolcissima signora. Se mia madre fosse stata morta, sarei semplicemente passato oltre. Ma con lei viva mi parve qualcosa di esagerato. Credo che debbano esistere dei limiti. Se avessimo qui una copia della rivista, lei non se la sentirebbe di mostrarla al pubblico, e se lo facesse, qualcuno taglierebbe la scena, perché quell'annuncio non è adatto per essere guardato da tutte le persone. Not fit for human consumption. E però Larry Flint vince ancora, perché nell'88 la Corte Suprema gli dà ragione, sentenza che una parodia non può essere considerata lesiva dell'immagine di un personaggio pubblico, ribadisce la libertà di espressione e stampa garantita dal famoso primo emendamento al quale lui si era appellato e lo faceva sempre con grande frequenza e disinvoltura. Questa sentenza favorevole, peraltro, arriva in un momento molto buio della vita di Larry Flint, perché la amata moglie Althea è morta da poco di AIDS. Lui decide di disintossicarsi dai farmaci, si sottopone anche a un delicato intervento per recidere alcuni nervi e per sollevarlo dai continui lancinanti dolori di cui soffriva. Rinato a nuova vita, si dedica a smascherare gli scandali sessuali legati al mondo della politica, e in particolare nel 98 esplode il caso Lewinsky, Bill Clinton, la Lewinsky, la stagista, insomma ne sappiamo molto tutti. Larry Flint offre dalle pagine della sua rivista la bellezza di $1,000,000 in cambio di prove o di testimonianze contro gli uomini politici coinvolti in scandali sessuali. E fa bingo, perché trova delle prove che portano alle dimissioni del presidente della Camera, Bob Livingston. Oggi Larry Flint ha 74 anni, si è sposato per la quinta volta, ha 5 figli, continua a dirigere la sua rivista Hustler. Ma non solo, perché negli anni è nata un'altra rivista, Barely Legal, si potrebbe tradurre con appena appena legale, una rivista pornografica che mostra solo esclusivamente foto di ragazze che hanno appena compiuto 18 anni, l'età minima per poter fare quel lavoro senza andare contro la legge. Ma la Larry Flynn Publication ha interessi anche in altri ambiti, perché lui è distributore e produttore di film pornografici, ha creato gli studi della Hustler Videos, continua incessantemente a ricevere denunce e si trova spesso in tribunale per difendere il suo operato e continua a appellarsi alla sua ancora di salvezza, il famoso ormai primo emendamento. È significativa una delle scene centrali del film dedicato alla sua vita, Oltre lo scandalo, di Milos Forman, nel quale compare lo stesso Larry Flynn come attore nelle vesti del giudice Morrissey. Si tratta di una scena cruciale del film in cui l'avvocato Alan Isaacman ribadisce con forza l'importanza della libertà di scelta, che è il fondamento di ogni paese civile. Signore e signori della giuria, avete sentito molte cose oggi e non vi annoierò passando di nuovo in rassegna quanto è stato detto. Ma voi dovete riunirvi in quella stanza per emettere un verdetto. E quindi io vorrei che almeno una cosa fosse molto molto chiara prima che vi riuniate. Io non vi voglio affatto convincere che debba piacervi quello che fa Larry Flynt. A me per primo non piace. Ma quello che mi piace è che viviamo in un paese in cui io e voi possiamo giudicare in piena autonomia. Mi piace vivere in un paese dove posso comprare Hustler Magazine e leggerlo se voglio, o buttarlo nell'immondizia se penso che quello sia il suo posto. O meglio ancora, esercitare la mia libertà di giudizio non comprandolo. Mi piace avere questo diritto e voglio difenderlo, come dovreste difenderlo voi, e con forza, perché viviamo in un paese libero. E così i colpi d'ala, quasi tutti verso l'alto, con cadute tragiche di Larry Flynt, vanno sempre di pari passo con la rovina. In qualche modo lui riesce sempre a salvarsi. Il primo emendamento della Costituzione americana è ciò a cui lui si appiglia quando la situazione si fa grave. Ci sono storie spesso sconosciute di persone che hanno saputo darlo questo colpo d'ala, che hanno volato in alto, hanno tentato, ce l'hanno fatta, sono caduti e sono risaliti, perché ognuno di noi nella sua vita può cadere o risalire. Se volete mandarci dei commenti oppure segnalare altre vite su cui volete che noi si punti il microfono, fatelo, scrivete al nostro sito www.radio24.it oppure il falco il gabbiano @radio24.it, oppure venite a cercare me nei miei social, Twitter, Facebook, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a lunedì.